il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Cresce la sensibilità verso il rispetto della natura e dell'ambiente e la consapevolezza che proteggere il territorio in cui viviamo è proteggere anche noi stessi. Tuttavia continuano a riproporsi episodi in cui interessi particolari, soprattutto economici ma non solo, sembrano venire anteposti al benessere dell'ambiente e della collettività. È il caso, e se lo è lo scopriremo in questa puntata, del fiume Brenta e delle falde acquifere nella zona tra le province di Padova e Vicenza. Un fiume, il Brenta, che sembrava aver raggiunto una certa tranquillità dopo secoli di deviazioni a opera dei veneziani, degli austro-ungarici, di raddrizzamenti, prelievi di ghiaia, di acque per l'irrigazione e così via. Non sembra essere sempre così. Cosa sta succedendo oggi? Ne parliamo con il dottor Paolo Rigon del comitato Brenta Sicuro. Benvenuto dottor Rigon. Del gruppo Ambiente Carmignano. Faccio un po' di confusione perché so che ci sono alcuni comitati che si sono messi assieme proprio per questa problematica. Sì. Cosa sta succedendo? Nel 2012 è stato fatto un accordo di programma tra 12 comuni e altri enti, la provincia, le province, la regione, altri enti ancora, 19 in tutto, per un prelievo delle falde del Medio Brenta, cioè nella zona di Carmignano, delle acque per la Bassa Padovana, Rovigo, eccetera. Solo che questo accordo di programma non è stato rispettato, non è stato realizzato secondo quanto era previsto e oltretutto è sovradimensionato rispetto ai limiti stessi di prelievo che la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione ha dato e che, come dire, da qualsiasi analisi che venga fatta si può vedere insomma che ci sono un numero di pozzi esorbitanti per prelevare il doppio dell'acqua che è stata autorizzata. Quindi a questo si è aggiunto poi una variante del progetto, dopo l'accordo, per prelevare della ghiaia in Brenta per proteggere questi pozzi che verrebbero fatti in alveo. E l'assurdità che noi poniamo è quella di questo prelievo esorbitante e del fatto che venga eseguito con un numero di pozzi al di sopra di ogni previsione attendibile e che parte di questi pozzi vengano fatti in alveo, per cui bisognerà proteggerli e rischiano di essere sommersi dalle piene del fiume. Senta, questi pozzi che scopo hanno questi scopi e questi pozzi? Perché il prelievo di queste acque? Per l'irrigazione? O per... No, per il prelievo è stato autorizzato. Attualmente c'è in atto da anni un prelievo di 800 litri da parte di Etra per l'acquedotto di Etra stesso. Adesso è stato autorizzato questo prelievo, un aumento di 500 litri per portare l'acqua nella Bassa Padovana, nella zona di Rovigo, per gli acquedotti del Veneto. Quando lei dice 500 litri si intende 500 litri al secondo? Al secondo, 500 litri al secondo, scusi, sì. Con una previsione futura, se verrà fatto il progetto di rimpinguamento delle falde previsto dall'accordo di programma e una valutazione che le falde possono consentirlo, di aumentare questi 500 in più a 950, ma dopo che saranno realizzate queste opere di rimpinguamento della falda nella zona dell'Alta Padovana e del Vicentino, il confine con la nostra zona, insomma. Poi c'è un altro progetto. Sì. Sempre nella stessa area, cioè nella stessa zona del Brenta, di difesa spondale della zona di Santa Croce e Casoni, che per rifare un pezzo di sponda del fiume di 500 metri verrebbero compensati questi lavori con l'estrazione di 500.000 metri cubi di ghiaia dentro nel fiume, e questo è un altro misfatto che va contro quella che è la conservazione dell'habitat e contro ogni principio di buona amministrazione. Insomma. Ecco, attualmente i prelievi di ghiaia dall'alveo del fiume sarebbero proibiti, tranne questa, diciamo, concessione particolare? O ancora avviene questa attività? Sappiamo che era una delle attività storiche lungo il Brenta. No, il Brenta è, come dire, lasciato in pace da 30 anni a questa parte ed è, come dire, rinato con il suo habitat naturale, solo che adesso vengono previste queste asportazioni per l'uno progetto dei pozzi, per protezione dei pozzi, e l'altro per la sponda di Casoni nella stessa area, su 2 chilometri di fiume, cioè per 2 chilometri verrebbe abbassato il fiume da 1 a 4 metri, distruggendo completamente l'habitat naturale che si è ricostituito in questi 30 anni. Ecco, sappiamo che appunto che l'habitat è una delle principali attrattive, si sta parlando di una ciclovia, anzi già esiste una ciclovia lungo il Brenta, vi sono delle zone veramente molto belle anche dal punto di vista paesaggistico, e sono diventate un'attrattiva anche turistica per la zona, quindi è un ambiente da proteggere assolutamente anche per questo motivo. Certo, sì, cioè è una zona molto frequentata e sempre più apprezzata dai cittadini, dalle persone che frequentano questi ambienti, che percorrono le vie lungo il Brenta, insomma, quindi in questo modo questa zona stessa verrebbe deturpata e in parte distrutta, insomma, dentro l'alveo per 2 chilometri, quindi non stiamo parlando. Inoltre questo progetto di rifacimento spondale della zona di Santa Croce con una compensazione di 500.000 metri cubi di ghiaia sarebbe il primo di 8 progetti, tutti a compensazione, tutti con estrazione di ghiaia, che partirebbero con il primo intervento di Santa Croce e Cittadella, insomma quello che stiamo parlando, fino a Piove di Sacco ci sarebbero sono previsti 8 interventi. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo ad approfondire questo argomento tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. 4 elementi per la nostra vita. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't. You down, cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del Brenta, di alcuni interventi sull'alveo del Brenta. Lo stiamo facendo con il dottor Paolo Rigon del gruppo Ambiente di Carmignano. Ecco, come comitati, come vi state muovendo e quali sono i prossimi passi che pensate di portare avanti? Questa è una domanda molto importante. Noi abbiamo cominciato in agosto del 2015 con un primo esposto dettagliato su tutte queste questioni di entrambi i progetti. Poi abbiamo fatto un altro esposto a novembre, siamo andati anche in seconda commissione consigliare della regione, abbiamo fatto un altro esposto l'ultimo febbraio, ripercorrendo un po' tutte le questioni che avevamo posto nei precedenti e che non erano state affrontate dalla regione, dagli enti come dei comuni, dagli enti competenti, e poi abbiamo fatto una decina da agosto dell'anno scorso fino ad ora, una decina di incontri pubblici, sempre molto partecipati, con centinaia di persone ogni incontro, e abbiamo fatto da ultimo, per essere un po' sintetico, insomma, una manifestazione il 7 di maggio lungo il Brenta, una camminata lungo il Brenta nei luoghi dei lavori con la partecipazione di circa 2.000 persone. Oltre a questo abbiamo fatto una petizione perché la regione affronti i nodi, le questioni che noi abbiamo posto, e abbiamo raccolto oltre 7.000 firme. Ecco, qual è la questione che vi preoccupa maggiormente? Quella dei lavori nell'alveo o quella dei pozzi? Beh, sono due questioni distinte, di due progetti separati. Quella dei pozzi è una questione abbastanza evidente, insomma ci sono più pozzi di quelli che sono necessari, e quindi noi non diciamo no all'acqua per la Bassa Padovana, noi diciamo semplicemente rispettiamo e facciamo un progetto che sia congruo con le quantità che sono previste dalla regione stessa, quindi non diciamo no, questa è una questione molto importante. E poi c'è il discorso dei pozzi in alveo, cioè non c'è nessun del fatto che siano fatti per andare lì a fare i pozzi in alveo, cioè contro natura, contro ogni logica, diciamo così. Certo. Ci stiamo battendo perché vengono eliminati questi pozzi in alveo, che sono in più e sono dentro, e per cui e per andare a proteggerli bisogna andare anche a scavare ghiaia dentro il Brenta. Insomma, le motivazioni per cui vi hanno detto che devono essere fatti questi pozzi e lì non sono state chiarite? Beh, ci sono delle argomentazioni artificiose da parte della regione scritte, perché la regione ci ha sempre risposto, sì, dicendo che non è alveo ma è golena, e questa è una balla colossale, perché l'abbiamo smentita con una documentazione di qualche giorno fa, nel senso che ci sono documenti della regione che dicono che i pozzi ETRA, quelli a fianco a quelli che dovrebbero essere fatti, sono in alveo, per cui la regione stessa contraddice se stessa e cerca di argomentare le cose in maniera assurda e completamente fuori luogo, insomma. Va bene, pensiamo di aver dato qualche informazione e comunque aver fatto capire che esiste un problema del quale è bene anche interessarsi, e cercheremo di tenere sotto controllo questa iniziativa e dare conto anche agli ascoltatori se ci saranno delle novità. La ringrazio della disponibilità. Grazie a voi. Sempre in tema ambientale, sono le brevi notizie che veniamo a dare per concludere la trasmissione. L'associazione Shiloh, Centro Universitario Teatrale di Venezia, con la collaborazione del web magazine Comete, bandisce un concorso internazionale di comunicazione e creatività per opere edite e inedite aventi per tema i cambiamenti climatici. L'obiettivo è incentivare un approccio interpretativo e attivo nei confronti di temi ambientali e di richiamare la strategia 2020, in particolare il pilastro dell'Europa sostenibile. Al concorso possono partecipare tutti gli autori di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto i 15 anni al momento della scadenza fissata al 20 novembre del 2016. Gli elaborati possono essere opere di scrittura, arti rappresentative e figurative. Maggiori informazioni sul sito dell'associazione www.ciut.it. Si sta svolgendo in questi giorni, fino a venerdì 17 giugno, promossa dalla Commissione europea, la Settimana europea dell'energia sostenibile, dedicata all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Lo slogan di quest'anno è Building the Energy Union Together, per un utilizzo consapevole e sostenibile dell'energia e per costruire un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso l'impiego delle fonti di energia rinnovabili. Per tutto il mese di giugno saranno organizzati Energy Days, attività ed eventi volti a promuovere buone pratiche in tema di energia. A questo riguardo la città di Venezia partecipa per il sesto anno consecutivo con l'organizzazione di una serie di eventi a ingresso libero gratuito dislocati nelle località di Crignago, Marghera, Mestre, Mirano, Spinea e Venezia. Con questo è tutto, anche per questa settimana concludiamo la trasmissione, vi diamo appuntamento alla prossima. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it.